Ciao a tutti, benvenuti nella nuova puntata di Lucciole nelle Tenebre. Io sono Marta e qua con me c'è Flavia. Ciao a tutti. Oggi vogliamo parlarvi di un tema molto attuale, che lo è stato anche in passato, ma diciamo che adesso è più attuale del solito. E lo sarà probabilmente ancora per lungo tempo, ma dopo l'ultimo naufragio del 19 aprile, cioè non l'ultimo, ma l'ultimo che ha avuto davvero un audience pazzesco. Perché è stata la più grande strage del Mediterraneo fino ad oggi, quindi... Sì, diciamo non ce n'è stata un'altra di quell'entità, però gli sbarchi continuano e con essi anche i naufragi, e i numeri delle persone coinvolte in questi fatti sono veramente enormi. Sì, infatti l'ultimo naufragio, le ultime morti sono il 5 maggio, quindi pochissimi giorni fa, e il barcone che è naufragato aveva solo un centinaio di persone. Però comunque i numeri dei salvataggi sono enormi, perché nei primi 5 giorni di maggio sono state salvate ben 8.000 persone, tra le 8.000 e le 9.000, e dall'inizio dell'anno sono 34.500 le persone salvate dalla Guardia Costiera. Insomma, qualcuno una volta mi disse che i numeri non hanno un dato emozionale, però considerando l'entità appunto di questi numeri, direi che non possiamo rimanere indifferenti. E quindi oggi abbiamo deciso di parlare di questo, vogliamo affrontare le due fasi diciamo di questo arrivo, la gestione appunto del traffico dei migranti e di come diciamo le istituzioni hanno risposto alla strage appunto avvenuta da questo aprile, e poi passare invece ad affrontare la fase dell'accoglienza. Sì, quindi con ordine, la prima domanda che vogliamo porci e che poniamo a Eleonora, che oltre ad essere una mia amica fa parte del Comitato di Solidarietà Rifugiati e Migranti dell'ex MOI occupato, e si sta occupando appunto di un progetto di integrazione e di scuola ai migranti e rifugiati. E a lei chiediamo che cosa è cambiato dal 19 aprile e quindi quali sono le nuove direttive europee. Secondo me bisogna fare due passaggi. Il primo è quello che ha intenzione di fare la Commissione dell'Unione Europea, che come sappiamo ha stilato questi 10 punti programmatici per appunto contribuire a intanto evitare che le persone che vogliono arrivare in Europa muoiano nel mare a causa della situazione dei barconi, eccetera, e poi in secondo luogo come fare per provare a fare in modo che sia più facile per le persone arrivare in Europa. E questo, leggendo i 10 punti programmatici della Commissione, mi è sembrata un po' l'intenzione, quindi evitare le morti in mare e poi anche creare un sistema. Ad esempio, hanno fatto riferimento un progetto volontario di reinsediamento dei migranti, per cui tu già decidi che i rifugiati vengono qua e possono andare in Germania piuttosto che in Svezia, piuttosto che in Francia, eccetera. Ed è una prospettiva, un approccio più aperto, come ha sempre fatto la Commissione europea in materia di immigrazione. Il problema è che dall'altro lato ci sono gli stati e c'è il Consiglio europeo, che si è trovato all'indomani del naufragio, delle morti, eccetera, e ha sottolineato alcuni punti non sufficienti, nel senso, e tra l'altro lontani, abbastanza lontani da quella che è invece la prospettiva della Commissione. Perché cosa si è detto all'interno del Consiglio europeo? Si è detto di rafforzare la presenza degli stati in mare, e va bene, però ad esempio non si è deciso di aumentare il budget dell'operazione Triton, quella che si è sostituita a Mare Nostrum, di aumentare il budget ma non di aumentare lo spazio entro cui le barche possono operare, che restano quelle 30 miglia, quindi non si avvicinano in realtà alle coste della Libia per intercettare anche quei migranti. Quindi da questo punto di vista non è stato fatto granché. In più ci si è concentrati molto sul combattere il traffico dei migranti, il traffico di esseri umani, e combattere l'immigrazione cosiddetta illegale, che in realtà a livello giuridico sarebbe più corretto definire irregolare. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente gli stati si sono concentrati non sulle cause che fanno sì che le persone poi muoiono in mare, ma sullo strumento, cioè ci sono i trafficanti che appunto sono portati dall'ampio numero di persone che vogliono arrivare in Europa a lucrare su esse e quindi appunto a trafficare in esseri umani. Secondo me emblematico da questo punto di vista sono le parole di François Crépeau, che è consulente delle Nazioni Unite sui diritti dei migranti, nonché professore alla McGill University, insomma è molto esperto nel campo, che ha detto che l'Europa in questo momento in realtà sta creando il mercato di esseri umani per i trafficanti, cioè le politiche europee che impediscono alle persone di arrivare non fanno altro che creare questo mercato. La soluzione non è quella di reprimere il flusso, ma di organizzarlo e quindi permettere di arrivare e poi capire come integrare queste persone, come riuscire a vivere insieme e quindi anche a utilizzare il capitale umano che rappresentano, perché voglio dire, sono persone che si portano dietro esperienze eccezionali, conoscenze eccezionali, spesso sanno molte lingue, hanno molte competenze dal punto di vista lavorativo, eccetera. Quindi l'idea non è quella di, ancora una volta, alzare delle barriere, costruire dei muri, ma accoglierli e creare un'accoglienza effettiva e vera che permetta, appunto, cioè che sia utile anche ai paesi europei. While you were sleeping, your babies grew. The stars shined and the shadows moved. Time flew, the phone rang. There was a silence when the kitchen sang its songs competed like kids for space. We stared for hours in our maker's face. They gave us picks, said go mine the sun and go gold and come back when you're done. Uh-oh, uh-oh. While you were sleeping, you tossed, you turned, you rolled your eyes as the world burned. The heavens fell, the earth quaked, I thought you must be, but you weren't awake, no. You were dreaming, you ignored the sun. You grew your power garden for your little ones, and you found brides for them on Christmas Eve. They hung young Cain from the Adam trees and danced. Uh-oh, uh-oh. While you were sleeping, I tossed and I turned till I closed my eyes. But the future burned through the planet, turned a hair gray as I relived the day. While you were sleeping, the time changed, all your things rearranged, your vampire mirrors face to face. They saw forever out into space. Did you have that strangest dream before you woke? 'Cause in your gown you had the butterfly stroke. Did it escape you like some half-told joke when you reached for your plume of smoke? There'll be no more names and no more days. bentornati in studio. Ringraziamo Eleonora che ci ha parlato appunto di cosa è cambiato dopo la strage del 19 aprile, di come hanno risposto le istituzioni all'emergenza. E passiamo alla seconda fase, diciamo alla seconda parte, quella successiva all'arrivo di queste persone in Italia. Come avviene la loro accoglienza? Dove vengono mandate queste persone? E, l'Internazionale ha pubblicato giusto qualche giorno fa una sorta di grafico che mostra le percentuali, in percentuale appunto la presenza di migranti per regione. Sì, al primo posto troviamo infatti la Sicilia con il 21%, anche per la sua posizione, credo, soprattutto, e poi il Lazio al 15%, Puglia e Lombardia. Poi non so, qui queste persone vengono redistribuite, diciamo, in tutti i vari centri di accoglienza sparsi per l'Italia. E appunto, ricordando i grossi numeri che facevamo all'inizio, viene quasi un po' da sorridere con l'amore in bocca se facciamo riferimento a quello che è successo proprio in questi giorni in Val d'Aosta. Esatto. Vai, Renata, ce ne racconti. Con molta gioia, sono proprio contenta di dare questa notizia. La Valle d'Aosta, infatti, che occupa l'ultima posizione della classifica internazionale e in questo momento sta ospitando nella regione a 62 migranti in questo momento. 62. Ha rifiutato praticamente la richiesta di altri 79 migranti. Sì, era stato quindi chiesto alla regione di, diciamo, rispondere a questa esigenza che si sta ponendo in questo momento, ovvero accogliere diciamo i migranti appena arrivati, e la Val d'Aosta ha detto che non ci sono le condizioni per, diciamo, ospitare queste persone, non hanno posto, logisticamente non ce la fanno, e quindi praticamente poi ripartendoli il risultato sarebbe stato una persona per città della Valle d'Aosta. Sì, e per bene, comune, non per città, comune, scusa, piccola, hai però ragione. Non c'è spazio per queste persone. E questo fa molto riflettere, perché da una parte si capisce il ragionamento del presidente della regione Rollandini quando dice: se dobbiamo ospitare delle persone ci devono essere le condizioni, e in questo momento non le abbiamo. Però dall'altra parte questo è davvero un'emergenza. Ed è un dato di fatto che le condizioni non sempre si sono presentate negli altri posti, eppure comunque bisogna far fronte a questa situazione. E per conoscerla più da vicino, noi abbiamo voluto sentire la voce di uno di questi ragazzi qui, che è arrivato in Italia qualche anno fa, e ci racconta la sua esperienza. Sì, questo credo sia uno degli esempi in cui forse l'accoglienza italiana ha un po' fallito, perché lui in questo momento non è in nessun centro di accoglienza, ma sta occupando una palazzina dell'ex MOI a Torino. Il MOI sono delle palazzine costruite per le Olimpiadi invernali del 2006. In seguito però sono state abbandonate, come tutte le grandi opere, che sono dei grandissimi monumenti dell'incompiuto. Sì, appunto, dovevano essere riconvertite ad uso residenziale, ma questo non è mai avvenuto, e quindi sono state occupate. Quindi ringraziamo un sacco Suleman e gli chiediamo com'è cominciata l'occupazione e perché. Noi siamo arrivati a 2011, no? E dal 2011 eravamo i progetti che hanno messo i governi italiani, europei, che hanno messo. Alcuni stavano alberghi, stavano, però no, come facevano, non facevano niente, stavano solo per mangiare, per girare un po' in giro. E poi noi, diciamo, dopo 2 anni, sono stati buttati tutti quanti via, da 2013 a marzo, all'inizio di marzo, hanno deciso di chiudere i progetti che hanno messo. E poi, no, come gente parlavano italiano, e poi il permesso di soggiorno che avevano dato i governi italiani erano un anno, 6 mesi, hanno dato a noi tutti quanti. Un anno, 6 mesi era, diciamo. Quando hanno deciso di chiudere i progetti, hanno deciso di dare 500 a testa a ognuno di noi, se uno vuole andare all'altra parte d'Europa, Però premesso il soggiorno che avevano dato non potevamo lavorare fuori, non potevamo stare più di 3 mesi fuori Italia, in Francia o in Germania. E poi non ho come tutti che avevano possibilità per uscire, tutti non avevano anche finito, dopo 2 anni non parlavamo italiano nessuno e poi era difficile anche per uscire. E poi quando hanno buttato fuori, noi eravamo nella zona di Piemonte, alcuni erano a Cuneo, alcuni a Torino, e noi eravamo a Torino. Alcuni dormivano a Porta Nova, i treni rotti, alcuni dormivano a Cotolengo. E poi abbiamo cercato di avvicinare a gente, ragazzi di antifascisti, al Gabrio, a Cavalieri, ragazzi lì sono vicini, parlavamo con loro, veramente ragazzi di università, per cercare di trovare un posto di dormire. E poi ci siamo fatto assemblea con loro, alcuni hanno partecipato dei rifugiati, quelli che dormivano, alcuni non pensavano che era una cosa seria. E poi abbiamo deciso di insieme con loro, abbiamo parlato con loro, abbiamo deciso di andare a occupare la Palestina di al Lingotto, al Moi, che c'è olimpico, che era da tanti tempo fa che era fermo, era chiuso, non c'era nessuno, abbiamo deciso di andare a occupare lì qualche tempo. Poi non è come che eravamo tutte lì. All'inizio eravamo 300, 400, e poi altri non avevano, tanti erano usciti d'Italia, anche loro non avevano possibilità per restare. Ways to cool off in the shadows, then into the street, following the water. There's a bearded man paddling in his canoe, looks as if he has come all the way from the Cayman Islands. It seems they'll go in circles, places look the same, and we're the only difference. The wind is in your hair, it's covering my view. I'm holding on to you, I'm about you higher until tomorrow. Un'altra domanda che vogliamo fare a Suleiman è: che cosa si può fare per migliorare il sistema di accoglienza, soprattutto quello italiano? Anche perché noi sappiamo un sacco di teorie, ma ci manca sempre l'opinione di chi poi deve viverli questi sistemi di accoglienza. Per migliorare, da 2013, quasi circa 2 anni qua, noi siamo migliorati, no? Perché come anche io, altri ragazzi non parlavano italiano, no? italiano bene, quindi grazie ragazzi di università, ragazzi di altri che vengono a aiutare noi, ragazzi di come si chiama, diciamo, altra, di, come si chiama, al Gabrio, all'Asca. Delle associazioni e dei centri sociali. Sì, che vengono a insegnare a noi, ragazzi di università che vengono, hanno messo loro. Loro hanno messo da 2013 fino adesso, hanno fatto meglio di che progetti di italiani che ci hanno messo prima, perché no, come che ti dai cibo a una persona per andare a dormire, dai solo cibo, no, come puoi migliorare il futuro, come hanno fatto veramente da 2011 fino a 2013 e poi hanno buttato tutti quanti fuori. Però da adesso per migliorare noi siamo, ci andiamo, alcuni vanno a scuola, alcuni vanno a fare i corsi di lavori, alcuni stanno ancora andando a scuola per imparare anche meglio, come io, magari non come tutti parlano, anche come me adesso, cioè. Tu lo parli bene adesso. Sì, io sono stato a scuola da 2013 fino adesso, studenti vengono a aiutare a noi per, cioè, per migliorare, cioè, andiamo, noi cerchiamo, noi non come vorremmo per stare questa casa, questo qua noi lo sappiamo che non può essere la nostra casa, stiamo cercando di, cioè, di fare chi migliora, cerca di affittare una casa o cerca di andare, e poi siamo, cioè, vorremmo anche una cosa di sì, cioè, il governo d'Italia o Europa, perché una cosa no, come la decide Europa e Italia, diciamo, quando andiamo a manifestare parliamo di Italia, cioè, però non è una cosa facile, devono dare un documento, una cosa di Europa, devono dare un documento a tutti quanti di noi che possiamo uscire Italia per lavorare. Certo, quindi però no, quindi appunto, come dicevi tu, una proposta potrebbe essere quella di appunto creare una sorta di permesso di soggiorno non legato ai singoli paesi ma europeo, per cui le persone che arrivano possono decidere, anche se arrivano in Italia, magari di spostarsi in altri paesi a lavorare e appunto avere la libertà di viaggiare, di circolazione e anche di residenza come hanno i cittadini europei. Ringraziamo ancora una volta Eleonora e Suleman per essere stati con noi. Grazie. E vi lasciamo con l'ultimo pezzo, che ha un motivo particolare, diciamo, sì, ha una dedica particolare. Off topic, non c'entra niente, però visto che per registrare questa puntata sono dovuta correre via dai festeggiamenti di una mia amica, allora per scusarmi, visto che ieri era il suo compleanno, le dedico una canzone che mi fa un sacco venire in mente lei, che lei spesso canticchia, che è Grey Goose di Cesare Cremonini. Auguri. Tanti auguri, Marta. Ciao. Chi sei? Amore, buongiorno. Quando mi levi di torno non vedo l'ora che esce, non torni più. Il mio amore sei tu, sei la donna che voglio. Vorrei dirti parole d'amore, ma forse a parlare sei più brava. Tu ti va dall'altra greco. Accendiamo un film porno. Già ti vedo vestita di rosa, ti comprerò a casa. Sei tu la mia sposa, ma scelgo più giù. Vieni a darmi il buongiorno, la notte è già finita, Angelina. Ma tu sei così bella, Angelina. Presentami un'amica, Angelina. Mi basta non sapere chi sei. casa stasera, ho capito che cercandomi nel buio pensavo ancora a te. Nella luce dei lampioni ti ho rivisto ancora. L'amore non viene mai una volta sola.